Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Usciamo da questo G20 convinti che l'Italia abbia uno straordinario passato, ma che abbia ancora di più uno straordinario futuro. Quindi proviamo a lavorarci insieme con la serietà del passo dopo passo, con la consapevolezza che sarà una lunga marcia, per dirlo qua, ma con la certezza che siamo in condizioni di vincere questa sfida. E con questo immancabile attestato di ottimismo di Renzi sul futuro dell'Italia ricomincia, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la nuova stagione di Effetto Notte, imperdibile appuntamento quotidiano, ormai in tanti lo sapete, per avere un quadro esauriente delle principali notizie della giornata che ormai si sta chiudendo. Non manca nella ripresa di Effetto Notte, un po' in tutte le attività umane, diciamo, la politica italiana, con la ripresa di tutte le cose restano le grandi emergenze, come la crisi dei migranti, come la guerra siriana. Purtroppo questo agosto poi si è aggiunta anche la tragedia del terremoto nel centro Italia. Invece, per stare sulle notizie più leggere, più piacevoli, vi annuncio già, vi informo già che nella partita che è appena iniziata per la qualificazione mondiale tra Italia e Israele, l'Italia ha fatto un primo gol, quindi 0-1 per il momento per l'Italia. Uno dei vari temi che seguirò con voi, con gli ospiti qui a Effetto Notte, in questa prima puntata, e vi ricordo come sempre che potete intervenire sui vari temi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte direttamente, oppure con il numero per i WhatsApp e per gli SMS, che è il 349-238-6666. Allora, senza perdere altro tempo, cominciando questa prima puntata della nuova stagione, questi i titoli. Il caso rifiuti a Roma, l'assessora Muraro indagata sin da aprile, lei spiega, l'ho saputo a luglio, attacco del PD sulla nomina di Dominicis, ma la sindaca Raggi assicura, non ci spaventiamo e andiamo avanti. Referendum, Renzi annuncia, fisseremo la data entro il 13 ottobre come previsto, e D'Alema apre la campagna per il no. Il G20 in Cina chiude i battenti, nuovo patto per la crescita globale, nessuna intesa tra Obama e Putin sulla Siria. Le elezioni regionali in Germania, sorpasso della destra in Mecklenburgo, la cancelliera Merkel scontenta del voto, rilancia su espulsioni e welfare. Il terremoto in centro Italia, il bilancio dei morti sale a 295, da domani la fase d'ascolto sul sisma, vertice Renzi e Errani, la leader da CGIL Camusso dice dal governo scelte giuste. Animali a rischio estinzione, vinta la battaglia per salvare il panda, non è più a rischio, la popolazione aumenta, ora il gorilla è il più minacciato. Calcio per le qualificazioni mondiali 2018, in campo Israele-Italia, già vi dicevo il gol dell'Italia, 1-0. E partiamo quindi dal caso che agita la giunta della capitale. Oggi c'è stata un'audizione in commissione ecomafie per la sindaca di Roma Raggi e l'assessora all'ambiente Muraro sul caso Ama. Abbiamo trovato una situazione critica, dice Raggi, il nostro obiettivo è un modello rifiuti zero, non ci spaventiamo, abbiamo questa pazza idea, ha detto la sindaca Raggi, di governare per 5 anni, lavoriamo alla bonifica di Malagrotta, manterremo il 55% di ACEA. L'audizione dell'assessora Muraro, che risulta indagata ad aprile ma dice di averlo saputo a luglio e parla di attacco mediatico, c'è stata oggi, ne parleremo ampiamente. La sindaca per ora dice sono contestazioni troppo generiche, ma appunto per quanto riguarda l'audizione di Paola Muraro sentiamo questo passaggio. Alla fine luglio io sono venuta a conoscenza di un 335, diciamo così, articolo 256, comma 4. Così spiega insomma il documento col quale è venuta a sapere dell'indagine. Poi ci torneremo, vi dicevo, così come ci concentreremo sull'altro tema caldo della politica italiana, che è la battaglia sul referendum costituzionale. Oggi il Presidente del Consiglio Renzi ha assicurato che la data del voto sarà fissata entro il 13 ottobre come previsto. Intanto però Massimo D'Alema ha aperto la campagna per il no, definendo il referendum un pastrocchio che spacca il paese. Anche su questi temi potete intervenire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vi dicevo che al numero 349-238-6666. Sul fronte economico intanto preoccupa la crescita che è ferma, l'Istat prevede debolezza anche nei prossimi mesi. L'Italia non cresce, è bloccata e il futuro non sembra roseo. L'economia, certifica l'Istat nella nota mensile sullo stato di salute del paese, ha interrotto la fase di crescita. Domanda interna e produzione industriale pesano negativamente e nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo ha registrato una variazione nulla rispetto al primo trimestre. Su base annua la crescita del PIL si è fermata allo 0,8%, inflessione rispetto all'1% registrata tra gennaio e marzo rispetto a un anno prima. Nubi si addensano all'orizzonte, a luglio rimane negativo anche l'indicatore anticipatore dell'economia e nei prossimi mesi, stima l'Istituto di Statistica, proseguirà la fase di debolezza. La crescita zero del secondo trimestre impatta anche sul mercato del lavoro, che sempre a luglio ha registrato una battuta d'arresto con gli occupati in calo di 63.000 unità dopo 4 mesi consecutivi di aumento. E durante l'estate la fiducia delle imprese è scesa sotto quota 100 per la prima volta da febbraio 2015. Una fotografia che preoccupa i sindacati. Secondo CGIL e UIL siamo in una fase di stagnazione. Servono nuove misure per industria e consumi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per la politica, tema magari più leggero, comunque importante, il dibattito sul declinare i ruoli a seconda del genere. Sentiamo a questo proposito cosa ha detto la ministra Boschi. Ma io credo che nel momento in cui la Crusca ci dice che è corretto dire ministra in italiano, noi seguiamo le regole della Crusca, che è molto più autorevole di noi, e le decliniamo a seguire. Passiamo al G20 che si è concluso in Cina con gli obiettivi che sono stati fissati: meno protezionismo, un nuovo patto per la crescita. Per il resto polemica tra Filippine e Stati Uniti e poi nulla di fatto purtroppo sulla Siria dopo il vertice tra Obama e Putin. Mancanza di fiducia, così Barack Obama dopo l'incontro con Putin al volgere del tramonto di un G20 cinese in cui il presidente uscente ha spiegato il mancato accordo con la Russia su un reale cessato del fuoco in Siria. Una frase che ha probabilmente prodotto il più alto momento di sincerità in un vertice che ha visto muoversi su piani diversi e in ordine sparso leader in scadenza, in affanno o veri e propri equilibristi come il turco Erdogan, che muovendosi tra gli avversari alleati della NATO e la Russia amica per forza, ha proposto entrambi un'improbabile no-fly zone sui confini siriani. Una punta di umorismo, involontario, per quello che attualmente è il più bellicoso dei presenti al G20. Altrove impegnati, i padroni di casa cinesi avevano chiesto di restare in tema economia e si sono prodigati per rassicurare le opinioni pubbliche occidentali sul tema del dumping fiscale o industriale. Un dialogo tra distratti è il minimo che si possa dire, in cui persino i grandi sono apparsi stanchi di farlo. Il forum dei G20 è un formato recente, non ancora maggiorenne, ma visto da lontano sembra antico come il regno di mezzo. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Cina sono arrivate anche le prime reazioni della cancelliera tedesca Merkel dopo il voto delle regionali di ieri che ha sancito il sorpasso della destra euroscettica in Mecklenburgo. Assunzione di responsabilità da parte della sconfitta, da un lato, rincaro delle dosi di populismo da parte dell'outsider vincitrice, dall'altro. Il giorno dopo lo storico sorpasso elettorale della AfD sulla CDU, la cancelliera Merkel non si tira indietro di fronte alla debacle del suo partito alle elezioni regionali in Mecklenburgo. La Merkel, che è l'autorevole quotidiano Frankfurt Allgemeine Zeitung, non esita a definire un peso per il suo schieramento, non si è tirata indietro. Naturalmente sono responsabile di questo risultato politico, ha detto, dichiarandosi molto scontenta, ma ha difeso le sue azioni. Ciò che abbiamo fatto nei mesi scorsi è stato giusto, ora dobbiamo lavorare per riconquistare la fiducia dei cittadini. Di qui il nuovo mantra già ribadito la scorsa settimana a Maranello con Renzi: ci prendiamo la responsabilità umanitaria per i profughi, inclusa l'integrazione, ma mettiamo anche in chiaro che coloro che non hanno diritto di rimanere devono lasciare la Germania, ha chiosato la cancelliera, che si trova già a dover fare i conti con gli alleati bavaresi della CSU, da sempre più a destra della CDU. Chi invece cavalca l'onda elettorale è la leader xenofoba dell'AfD, Frauke Petri. Per tutelare la libertà e lo stato di diritto, i confini devono essere chiusi per questa immigrazione illegale, ha detto, lanciando a un anno dalle elezioni la sua profezia: la Merkel cadrà sui migranti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo sulle notizie italiane con il terremoto che ha colpito il centro Italia. Il bilancio delle vittime è purtroppo salito a 295. Siamo solo al 12° giorno di questa tragedia, c'è ancora molto da fare in termini di danni e di ricerche. Con queste parole il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha aperto l'assemblea straordinaria della Conferenza dei Consigli Regionali convocata nella capitale per fare il punto sulle azioni comuni da mettere in campo a favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto. Questa è la prima vera emergenza che colpisce 4 realtà, ha detto Curcio. Dovremo tener conto delle differenze che ci sono tra i territori e le comunità. L'impegno del tavolo si traduce dunque nell'intenzione di ascoltare e comprendere le esigenze delle persone colpite, evitando di intervenire con soluzioni preconfezionate, specie durante la fase di ricostruzione post-sisma. L'obiettivo, sostiene il coordinatore della conferenza, Franco Jacob, è il coordinamento tra i consigli regionali delle 4 realtà coinvolte dal terremoto. Cercheremo come sistema tema dei consigli regionali, di mettere in atto l'attenzione, la prevenzione, le prospettive di ricostruzione e di opportunità di sviluppo per questi territori. Ancora una volta è poi stata ribadita l'urgenza, causa allerta meteo, di trasferire gli sfollati, specie le categorie più fragili, in sistemazioni alternative come le strutture alberghiere. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi parleremo anche nelle novità che riguardano invece l'indagine, l'inchiesta per eventuali responsabilità penali. Adesso di nuovo all'estero, gli attentati di Parigi allo Stade de France, nei caffè al Bataclan, facevano parte delle intenzioni dell'ISIS di un piano che prevedeva molti più obiettivi, non soltanto in Francia. Il 13 novembre 2015 avrebbe invece dovuto essere, stando a documenti in mano alla CNN, il giorno di un attacco globale e simultaneo contro diversi paesi europei, tra i quali Olanda e Gran Bretagna. Parliamo di una nuova ricerca sulle origini della vita sulla Terra. Dare il là alla vita sulla Terra portando una grande quantità di carbonio è stata una collisione cosmica fra la Terra e un embrione di pianeta simile a Mercurio. E la ricostruzione proposta dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience dal gruppo del Rice University Earth di Houston, l'ipotesi offre una nuova spiegazione a una questione da lungo tempo dibattuta, e cioè come si sia sviluppata sulla Terra la vita basata sul carbonio, dato che la maggior parte di questo elemento avrebbe dovuto evaporare nel primo periodo di vita del pianeta oppure imprigionato nel nucleo terrestre. Anche di animali si parla. Il rischio estinzione sembra scomparso per il panda, la sua popolazione è in aumento, tanto che da fargli meritare lo status di vulnerabile e non più in pericolo. Sono aumentati del 17%, ora ci sono 1864 adulti, che con l'aggiunta di piccoli porta il totale sopra i 2000 esemplari. Notizie opposte invece purtroppo per il gorilla, che sono vicini all'estinzione. E poi c'è il cinema, il Festival di Venezia bagarra per un film italiano in gara, il caso di Piuma, oggi il secondo film italiano in gara a Venezia 73, una commedia di adolescenti diretta da Rohan Johnson, su cui l'aspettativa era stata alimentata dallo stesso direttore della mostra, Alberto Barbera, che aveva definito Piuma la commedia leggera e intelligente che tutti vorrebbero fare. Poi capiremo, collegandoci con Venezia più tardi, per quale motivo ci sono stati questi fischi, addirittura grida, vergogna, eccetera, eccetera. La musica. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Nel giorno del suo 70° compleanno, avrebbe compiuto 75 anni, a quasi 25 anni dalla scomparsa, innumerevoli fan ricordano, celebrano, omaggiano Freddie Mercury, il cantautore e musicista britannico, camaleontico genio della musica di tutti i tempi. Era nato il 5 settembre 1946 a Zanzibar da una famiglia di origine Parsi, ha fondato i Queen nel 1970, in 20 anni è diventato una delle più importanti voci del rock. Alla sua morte il 24 novembre del 1991, a un giorno di distanza dalla diffusione di un tragico comunicato stampa in cui dichiarava pubblicamente di aver contratto l'AIDS, la discografia dei Queen contava 14 album in studio, 3 live e 2 raccolte, tutti di grande successo. Da allora naturalmente il mondo non l'ha mai dimenticato. Chiudiamo con il calcio, e già con un risultato molto positivo, Dario Ricci, è vero? Eh sì, Roberta, devo dire, mi fai un po' commuovere a sentire le note di Freddie Mercury. Tu sei sensibile, lo so. Ma fammi passare allora alla più prosaica partita di calcio che si sta svolgendo da Haifa. Buone notizie, sì, perché l'Italia è in vantaggio 1-0 su Israele, siamo al 28° di gioco, la rete al 13° di Graziano Pellè, al suo nono gol in maglia azzurra. C'è stata una bella azione al limite dell'area di Verratti, che ha aperto sulla sinistra per il milanista Antonelli, il cross basso raso terra, bravo Pellè ad anticipare difensori e portiere israeliano a infilare 1-0, un'Italia finora in controllo. Pochi istanti fa l'ammonizione di Bonaventura per un fallo a centrocampo, ma insomma finora soffriamo poco e siamo in vantaggio, direi un'Italia, considerato anche l'avversario, però decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto pochi giorni fa, sconfitta 3-1 dalla Francia a Bari. Partita per la qualificazione mondiali. Sì, questa. Comincia la prima partita ufficiale della gestione di Giampiero Ventura, visto che quella di Bari era un'amichevole. Invece questa volta i 3 punti sono davvero importanti, Roberta, perché cominciamo il nostro cammino verso Russia 2018, la Russia che nel 2018 appunto ospiterà la fase finale dei campionati mondiali di calcio. E vediamo, Dario Ricci, cosa succede più tardi, ci risentiamo. Grazie Dario, intanto ci prendiamo questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando, per i vostri commenti sui vari temi qui a Effetto Notte, come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte potete scrivere, oppure gli sms e WhatsApp al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi per questa prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte. Ringrazio per tutti i vostri messaggi che sono arrivati, bentornata. Quindi avvisate anche amici, parenti, familiari, eccetera, del ritorno di Effetto Notte per avere tutti i giorni in 60 minuti dalle 21 un quadro esauriente della giornata, delle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Adesso comincerò con i vari ospiti, come sempre, ad approfondire alcuni temi, ma intanto, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo quali sono i titoli principali. L'assessora Muraro indagata a Roma, lei e la sindaca Raggi lo sapevano da luglio, la sindaca e l'assessore in audizione oggi al Commissione parlamentare Ecomafie, polemiche sulla De Dominicis al bilancio. Referendum, Renzi dice parliamo di contenuti, la data ci sarà entro il 13 ottobre, intanto D'Alema lancia i comitati del no e dice questo referendum è un pastrocchio. G20, nuovo patto per la crescita globale, meno protezionismo, la ripresa intanto è lenta e non c'è nessun accordo per il momento tra Obama e Putin sulla Siria. La cancelliera Merkel in Germania scontenta del voto, le regionali rilancia su espulsione e welfare per il sorpasso della destra in Mecklenburgo. E poi parte la fase d'ascolto sul sisma, no a un aumento della benzina per la ricostruzione, l'inchiesta va avanti, nuovi timori per il maltempo. Rivolta in carcere, in un carcere minorile nel Beneventano, gli agenti feriti, detenuti armati con i piedi dei tavoli, la protesta è scoppiata per la mancanza di sigarette. Vinta la battaglia per salvare il panda, che era il simbolo degli animali in estinzione, non è più a rischio, la popolazione anzi aumenta, ora è il gorilla il più minacciato. Ciao, stiamo lavorando per Roma e come promesso in campagna elettorale stiamo portando quel cambiamento che serve per far ripartire la città. Abbiamo già trovato qualche piccola resistenza, ma non ci spaventiamo, lo sapevamo e andiamo avanti. In poche ore abbiamo nominato un nuovo amministratore unico di ATAC, l'azienda capitolina dei trasporti. Si tratta di Manuel Fantasia, che con l'assessore Meleo ha già ripreso in mano le redini dell'azienda. Abbiamo poi nominato il nuovo assessore al bilancio. Anche qui si tratta di una persona di primo rilievo. È il procuratore generale della Corte dei Conti Lazio, Raffaele De Dominicis, un magistrato che ha sempre lottato per la legalità e per la trasparenza. Questo è il messaggio, il video messaggio della sindaca Raggi in questi giorni piuttosto convulsi per Roma, per la sua giunta, per il caso Muraro prima di tutto, ma poi anche per le polemiche sul nuovo assessore al bilancio. Ne parliamo a brevissimo, volevo solo dirvi che è arrivato il secondo gol dell'Italia nella partita sulla quale ci siamo aggiornati poco fa con Dario Ricci, tra Israele e Italia, partita valida per le qualificazioni mondiali, secondo gol nell'arco di neanche mezz'ora più o meno dall'inizio della partita per l'Italia. Ma torniamo su questioni più prosaiche con la nostra Betta Fiorito da Roma. Ciao Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Elisabetta, come non cominciare questa nuova stagione di Effetto Notte con la politica italiana? Due i temi più caldi in questo momento. Uno è questo, i primi intoppi della giunta Raggi, il caso dell'assessora Muraro, e poi parleremo dopo invece della battaglia sul referendum. Allora, Betta, con sintesi straordinaria, ricordi a chi magari non ha seguito fin qui la vicenda o magari insomma gli sfugge qualche particolare, in cosa consiste questo caso Muraro? Ma insomma c'è poco da dire, qui c'è qualcuno che ha mentito e in particolare intanto l'assessora all'ambiente Paola Muraro, perché ha accettato l'incarico sapendo di essere indagata, e la seconda è la sindaca Virginia Raggi. Poi la sindaca oggi ha detto in audizione a Ecomafia che anche i vertici del Movimento 5 Stelle sapevano, e in serata è arrivato un post di Alessandro Di Battista che dice che il problema non è il Movimento 5 Stelle, ma è il fatto che i palazzinari sono contro il Movimento 5 Stelle per le Olimpiadi. Betta, comunico solo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che è un po' disturbato perché c'è un temporale a Roma, in corso a Roma. Un temporale a Roma, io sto però sono in una fissa, ma Allora, la cosa fondamentale è che praticamente Alessandro Di Battista ha detto i palazzinari ci fanno guerra perché il Movimento 5 Stelle dice no alle Olimpiadi a Roma. Ora, cosa questo c'entri con il fatto che l'assessore Paola Muraro è stata consulente di AMA, la municipalizzata per i rifiuti a Roma, per 12 anni, poi oltretutto guadagnando 1 milione di euro, ed è indagata dalla Procura di Roma? Io questo non lo riesco a capire, questo legame. Però forse ce lo spiegheranno dal Movimento 5 Stelle. È chiaro che noi stiamo parlando di una gaffa o forse anche di qualcosa di più, e che il Movimento 5 Stelle non sa come uscirne, e quindi l'unico modo è dare la colpa ai cosiddetti poteri forti. Betta Fiorito, senti, sentiamo un passaggio in audizione oggi, appunto, in cui è stata ascoltata sia la sindaca Raggi che soprattutto appunto l'assessora Muraro. Sentiamo, lei dice di non aver avuto un avviso di garanzia. Allora, la domanda che fanno i giornalisti è: hai avuto un avviso di garanzia? Questo è, e io un avviso di garanzia non l'ho avuto, per cui se poi il giornalista scrive, io, cioè, la differenza è fondamentale, però la domanda è questa praticamente, l'avviso di garanzia non c'è, ecco. Quindi dice di averlo saputo a luglio di questa indagine nei suoi confronti, dice che però di non aver ricevuto l'avviso di garanzia. Ma Roberta, loro possono dire quello che gli pare. Noi in sala stampa a Montecitorio domandavamo se ci stanno prendendo in giro a noi giornalisti. Allora, lei è indagata, punto. Poi, io sono garantista, magari l'assessora Muraro sarà assolta, assolutamente, però c'è un'indagine in corso. Ora, il problema è politico, non è giudiziario. Se una persona sta per diventare assessore all'ambiente del Comune di Roma, e lo sa che c'è un'indagine a suo carico, ha il dovere di dire no, non accetto. Poi, per carità di Dio, soprattutto se si accetta un incarico da un movimento che è molto che punta molto sull'onestà, che punta molto sul fatto che non ci siano indagati, che punta molto su tante cose che dovrebbero essere cristalline. Betta, comunque la sindaca Raggi ha detto: ho avuto il sostegno di Beppe Grillo, e poi nulla ci spaventa, andremo avanti. In questi, per il momento, sono accuse generiche. Certo, il problema è anche politico: è 70 giorni che è insediata e non c'è un atto di questa giunta, perché non c'è un capo di gabinetto, perché sappiamo com'è finita. Quindi, allora, o è imperizia o malafede, ma comunque Roma è bloccata. Questa è la realtà, e io che ci vivo ti posso dire che è così. Poi io dico anche che il problema del Movimento 5 Stelle è che si è ritrovato questa situazione che pensava di poter gestire e che al momento non sa gestire. Allora, delle due l'una: o il Movimento 5 Stelle abbandona Regina Raggi al suo destino, oppure continua a sostenerla, però se poi Regina Raggi affonda, affonderà tutto il Movimento 5 Stelle. Vedremo come inizia, come procede questa stagione. Diciamo che l'inizio non è stato buono. Vediamo se prosegue meglio. Grazie Betta Fiorito, e attenzione, grazie a voi. Attenzione al temporale. Ora invece, dicevo, l'altro grosso caldo tema della politica più nazionale, anche se anche in questo caso naturalmente si parlava prima della giunta della capitale, è la battaglia sul referendum costituzionale, al quale sapete che Renzi tiene moltissimo. Era partito con, lo si accusava di averla personalizzata questa campagna, adesso dice parliamo dei contenuti, non stiamo su queste cose, sulle polemiche, e ha annunciato che la data verrà fissata entro il 13 ottobre. Però la cosa importante è che dall'altra parte, diciamo, per quanto riguarda il versante contrario a questo referendum, Massimo D'Alema, storico esponente del PD, ex premier, ha lanciato oggi a Roma i comitati per il no. Vogliamo sentire prima Renzi e poi sentiamo D'Alema. Il referendum deve essere fissato a norma di legge entro il 13 ottobre, non settembre, entro il 13 ottobre, e a quel punto dal giorno in cui verrà fissato decorrono tra i 50 e i 70 giorni di tempo, quindi nei prossimi giorni, ascoltando i soggetti interessati, il Consiglio dei Ministri fisserà la data, che ragionevolmente sarà nei tempi già previsti. Una riforma limitata ed efficace e condivisa, anziché un pastrocchio che spacca in due il paese. Mentre invece ci sarebbe bisogno di un clima di collaborazione e di dialogo. Si riscalda insomma la battaglia. Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Ciao Barbara, ben trovata. Grazie. Beh, sì, si riscalda, mi sembra che riparte da dove l'avevamo lasciata. Infatti, ovvero come una telenovela, una serie TV. Sì, sì, infinita, dalla data del referendum. In questo caso però sappiamo che c'è una fine, no? Perché il referendum deve tenersi proprio secondo le date anche indicate dal Premier, che sono poi quelle previste dalla legge, al massimo entro l'8 dicembre, ma siccome l'8 dicembre non è domenica, l'ultima domenica possibile, se non sbaglio, è domenica 4 dicembre, quindi immaginiamo che sia tra l'ultima domenica di novembre e il 4 dicembre, ecco, per quanto riguarda la data. Per quanto riguarda poi invece appunto i comitati del no fatti oggi da D'Alema, la presidenza affidata a Guido Calvi, all'avvocato Guido Calvi, c'è da dire che è evidente che c'è una battaglia politica che forse prescinde da questa riforma, cioè, se vogliamo essere un pochino onesti anche da parte dei protagonisti. Del resto lo stesso D'Alema ha detto che se vince il no, cioè se si affossa la riforma, sarebbe la fine del partito del PD. Lui dice finisce il partito di Renzi, il partito della nazione. Questo sarebbe un bene. Quindi è chiaro che c'è una lotta politica all'interno in un contesto che insomma dovrebbe essere un po' più alto, visto che stiamo parlando di una riforma costituzionale. Non a caso anche gli ultimi sondaggi ci dicono che aumenta il numero degli incerti, perché gli italiani giustamente tra discussioni sulla data, discussioni sul partito della nazione, la personalizzazione di Renzi, alla fine dicono ma forse non ci capiamo niente, teniamocene fuori. Ecco, mi sembra un po' un quadro di quello che sta avvenendo in questi giorni. Dobbiamo entrare più nel vivo della campagna referendaria quando si entrerà nel vivo, cioè, e si entrerà nel vivo quando sapremo la data. A quel punto scatteranno, no, dai blocchi di partenza tutti, e vabbè, però insomma il quadro mi sembra chiaro, cioè è tutti contro Renzi, destra e sinistra e 5 Stelle e Renzi e diciamo la maggioranza PD, quella che definiamo la maggioranza PD a sostegno del referendum, cioè questo è il quadro, quindi se questo è lo scenario, sì, il paese è spaccato in due. È anche vero che in questa situazione non so quanto poi anche le ragioni del no, vista l'eterogeneità dei componenti che sostengono il no, possa aiutare, perché appunto si mescolano quelle che sono ragioni di merito sicuramente insomma legittime, circostanziate, a quelle che sono invece delle rivalse politiche, cioè non so, sentiamo anche Brunetta piuttosto che Salvini, votiamo noi e mandiamo a casa Renzi, cioè ormai è su questo, l'ha voluto il Premier, perché Renzi per primo ha posto quasi un referendum su se stesso, come un referendum su se stesso, quindi adesso ne paga le conseguenze e per quanto voglia frenare, per quanto continui a ripetere che la cosa fondamentale è la stabilità e che quindi qualunque sia il risultato non, adesso sembra che non succeda nulla ma non è che, cioè, è evidente che c'è una situazione, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare che qualunque situazione, no, avviene all'interno di un contesto. E qual è il contesto in cui cade questo referendum? Il contesto è che se si vota il 4 dicembre piuttosto che la domenica di novembre non so quale, comunque noi il referendum cade durante la sessione di bilancio, che chiaramente è, per dirlo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando della legge di stabilità. Ora, pensare che un governo si dimetta durante la sessione di bilancio con la legge di stabilità vuol dire che Io non oso immaginare che cosa potrebbe accadere al paese, non a Renzi o a D'Alema o a Berlusconi o a Grillo, ma al paese. Quindi è evidente che non si può pensare che qualunque sia l'esito del referendum avrà degli effetti politici importanti, sia sul destino di Renzi che sul destino delle altre forze politiche. Però pensare che con questo referendum il giorno dopo crolla tutto, fa paura, perché il rischio che si trasformi in un'altra Brexit è tangibile e molto preoccupante, soprattutto anche per chi ci guarda da fuori, cioè il timore che l'Italia possa tornare ad essere fortemente instabile è vista e percepita dai mercati come qualcosa ben peggiore della Brexit. Quindi assume addirittura una valenza internazionale questa vicenda del referendum. Ma anche perché non possiamo dimenticare che l'Italia, al contrario della Gran Bretagna, è un paese dell'euro. Quindi se c'è stato lo scossone Brexit, un'instabilità italiana produrrebbe uno scossone assai più elevato, più forte. Barbara, comunque poi appena si saprà la data, insomma, cominceremo anche noi a entrare nel merito per spiegare i contenuti, quantomeno poi ognuno sarà libero di votare come ci vuole. Ci riusciremo. Speriamo. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Buonasera a tutti. Ciao Barbara. Prima di lasciarci per questa breve pausa di creazione, i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, e il numero per i messaggi per i WhatsApp a 349-238-6666, continua ad arrivare, bentornata, vi ringrazio. Ma un ascoltatore scrive: quando uno deve ripulire 30 anni di escrementi è impossibile che riesca a farlo non sporcandosi le mani. In merito, dice Virginia Raggi, la vicenda di cui abbiamo parlato, il caso Muraro e la crisi dei rifiuti a Roma. E poi invece su questo ultimo tema di politica un altro messaggio, dice: ci vuole il referendum sulle pensioni, non si vive con 600 euro. Tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E prosegue la prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte, Roberto Giordano sempre con voi, grazie di tanti messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, anche lì potete scrivere i vostri commenti sui temi della giornata. E Ilaria addirittura scrive: per quanto è importante riprendere ad ascoltare il programma, dice: ben trovata cara Roberta, per arrivare a casa puntuale all'appuntamento mi sono beccata i 10 minuti di bomba d'acqua, mannaggia, da Roma. Ilaria, infatti prima abbiamo sentito la nostra Betta Fiorito da Roma con il fisso, anche il telefono fisso molto disturbato da questo temporale. Le notizie più importanti ve le ricordo tra pochi istanti e poi ritorneremo a parlare del terremoto che ha colpito il centro Italia e anche di sviluppi per quanto riguarda le indagini. Ma prima di tutto i titoli più importanti. Il caso rifiuti a Roma, l'assessora Muraro indagata sin d'aprile, lei spiega: l'ho saputo a luglio, attacco del PD sulla nomina di De Dominicis, ma la sindaca Raggi assicura: non ci spaventiamo e andiamo avanti. Referendum, Renzi annuncia: fisseremo la data entro il 13 ottobre come previsto, e D'Alema apre la campagna per il no. Il G20 in Cina chiude i battenti, nuovo patto per la crescita globale, nessuna intesa però tra Obama e Putin sulla Siria. Le elezioni regionali in Germania, sorpasso della destra in Mecklenburgo, la cancelliera Merkel scontenta del voto, rilancia su espulsioni e welfare. Il terremoto in centro Italia, il bilancio dei morti sale a 295, ne parleremo tra poco. Animali a rischio estinzione, vinta la battaglia per salvare il panda, non è più a rischio, la popolazione aumenta, ora il gorilla il più minacciato. E per il calcio, per le qualificazioni mondiali 2018, in campo ci sono Israele e Italia, 1-2 per l'Italia, questo è il risultato del momento. Invece dicevamo il terremoto, del terribile terremoto dello scorso 24 agosto, oggi è arrivato questo aggiornamento del bilancio delle vittime che purtroppo sale a 295, così ha detto il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, perché è stato ritrovato il corpo del giovane afghano che era dato per disperso. E insomma, comunque per dare una sistemazione migliore alle persone colpite da questo sisma. È una corsa contro il tempo, anche perché è annunciato, insomma, comincia ad essere annunciato il maltempo, il freddo sta arrivando nel centro sud Italia. Nel frattempo, naturalmente, gli inquirenti devono fare il loro mestiere, l'inchiesta deve andare avanti per accertare eventuali responsabilità penali. Raffaella Calandra. Ciao, ciao Raffaella. Sì, purtroppo, come l'esperienza ormai ci ha mostrato in altri dolorosi precedenti, come il terremoto di San Giuliano di Puglia, ancora il terremoto dell'Aquila, queste inchieste devono necessariamente andare avanti, contribuiscono per raggiungere, diciamo, dolore a dolore, laddove appunto con le novità e con i risvolti che raccolgono. Da domani si cominciano a raccogliere appunto dei materiali proprio da questi singoli edifici che sono stati già posti sotto sequestro, cioè si sta seguendo la stessa linea già sperimentata dopo il terremoto dell'Aquila, ossia ad un crollo un fascicolo, già una quindicina gli edifici che sono stati appunto posti sotto sequestro, e da domani appunto i tecnici cominceranno questi prelievi di materiale per andare a capire se quegli edifici crollati proprio miseramente sulle famiglie travolte appunto dal terremoto fossero stati appunto costruiti o ristrutturati male. Al momento sono una quindicina. Si parlava di sabbia, no? Spesso si parla in questi casi. Allora, di più sabbia, queste sono inchieste davvero molto tecniche e anche molto complesse. Cioè bisogna andare a verificare volta per volta all'interno dei singoli appunto edifici come sono state costruite, quali sono stati i controlli e le perizie fatte anche per quanto riguarda appunto il grado di resistenza ai terremoti, e sappiamo che uno dei nodi centrali in questa inchiesta sarà proprio capire cosa e in che modo erano stati fatti quegli adeguamenti sismici dopo il drammatico terremoto dell'Aquila, che aveva comportato appunto anche dei finanziamenti ad hoc anche per quest'area del centro Italia, che sappiamo essere come un'area a rischio. Quindi bisogna andare a capire come erano stati costruiti questi edifici, che tipo di miglioramenti, che tipo di controlli e che tipo di appunto tutele avevano da un punto di vista di sicurezza sismica. Tutto questo ricade sulle spalle di una procura anche abbastanza piccola, appunto come quella di Rieti, in supporto della quale appunto sono arrivati già dei tecnici romani, e anche oggi il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, era in quelle zone e ha voluto garantire anche un supporto non solo, diciamo, di uomini ma anche di materiale tecnico, per far sì che questa inchiesta per disastro e omicidio colposo, un'inchiesta al momento senza indagati, possa al più presto, nel più breve tempo possibile, arrivare anche ad un quadro, diciamo, di responsabilità, che è in questo momento uno dei bisogni, diciamo, anche più forti della popolazione, oltre ovviamente a quello primario di soccorso di una sistemazione, che è quella di capire che cosa sia successo, che cosa abbia provocato, diciamo, una strage, così i 295 morti. Per dar giustizia a loro e anche per sperare che in Italia, insomma, ogni volta non si pianga dopo, no? Purtroppo questi terremoti appunto mostrano anche questa ripetitività, diciamo, delle vicende. Appunto ricordavo San Giuliano di Puglia, l'Aquila, e ora si va a indagare su crolli di scuole, come era stato appunto a San Giuliano, come era stata la casa dello studente dell'Aquila, e ogni volta appunto sembra di ritornare appunto da capo, laddove si dice non deve succedere mai più, laddove si dice ci saranno ora finanziamenti per far sì che ci possano essere dei controlli. Nulla cambia, mi sembra molto pessimista, ma purtroppo, diciamo, il dramma del terremoto del centro Italia ci rivela come di sicuro appunto non molto è stato fatto. Non molto si impara da questo. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Viabilità tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Grazie a Enno e a tutti gli altri che sono contenti del ritorno di Effetto Notte. Si ricomincia la nuova stagione. Di molti argomenti abbiamo già parlato anche in questa prima puntata: la politica italiana, i temi più caldi che sono appunto il caso Muraro, la crisi dei rifiuti e la situazione, insomma, di difficoltà almeno per questo inizio della giunta Raggi, e poi la battaglia che si infiamma sul referendum con Renzi, che ha detto che entro il 13 ottobre sarà annunciata la data in cui si farà questo referendum, e dall'altra Massimo D'Alema che ha lanciato i comitati per il no. Poi ci siamo soffermati adesso con Raffaella Calandra sul terremoto, sul sisma del 24 agosto, con l'aggiornamento anche purtroppo della cronaca e del bilancio delle vittime, che sono 295, perché è stato ritrovato un ragazzo afghano che era rimasto sotto le macerie, e poi anche ci ha aggiornato sulle indagini. Vi ricordo adesso, prima di passare al prossimo spazio, quali sono le notizie più importanti della giornata. L'assessora di Roma Muraro indagata, lei e la sindaca Raggi lo sapevano da luglio, la sindaca e l'assessora in audizione oggi alla commissione Ecomafie, polemiche intanto anche sul nuovo assessore al bilancio De Dominicis. Referendum Renzi dice: parliamo di contenuti, la data ci sarà entro il 13 ottobre, D'Alema lancia i comitati del no, è un pastrocchio, dice Massimo D'Alema. E poi G20, nuovo patto per la crescita globale. Nel frattempo non c'è stato nessun accordo tra Obama e Putin sul conflitto siriano. La cancelliera Merkel in Germania scontenta del voto alle regionali, dove c'è stato il sorpasso della destra in Mecklenburgo, rilancia allora sue espulsioni e welfare. Parte la fase d'ascolto sul sisma, no all'aumento della benzina per la ricostruzione. L'inchiesta, come avete sentito, va avanti, nuovi timori per il maltempo in arrivo. Nel Beneventano, rivolta in un carcere minorile con agenti feriti, detenuti armati con piedi dei tavoli, protesta questa per le sigarette. Vinta la battaglia per salvare il panda, non è più a rischio, popolazione aumenta, ora il gorilla è il più minacciato. E per quanto riguarda la partita in corso per la qualificazione mondiale dell'Italia contro Israele, per il momento conduce l'Italia 2-1. E ora, per quanto riguarda l'Europa, torna l'appuntamento con gli USON, ma in una nuova versione, con alcune informazioni per muoversi con più cognizione di causa, più agevolmente all'interno delle istituzioni europee, a partire da quello che è cambiato durante l'estate. USON, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Finita l'estate, si torna in classe, in ufficio, in Europarlamento. Gli eurodeputati tornano a Bruxelles. Apriamo la nuova serie di USON dossier con alcune informazioni di servizio, a partire da quello che è cambiato durante l'estate per arrivare all'agenda dei prossimi mesi. Partiamo dalla presidenza di turno, che si riunisce a gruppi di tre per definire le priorità. In seguito alla Brexit, il Regno Unito ha lasciato all'Estonia il suo posto nel trio, e se questo influenzerà le priorità dei prossimi mesi lo capiremo a breve. Riprendiamo quindi da dove eravamo rimasti, dal 7 luglio, dalle posizioni dei vertici UE sulla Brexit. Donald Tusk spera che il Regno Unito sia un partner dell'UE in futuro. L'accesso al mercato unico, dice, significa accettazione delle quattro libertà, inclusa quella di circolazione. Durante l'ultima plenaria, Juncker aveva detto di attendere il comunicato. Niente negoziati prima del comunicato. Per il capo del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, bisogna invece riformare l'Europa. La verità, dice, è che i cittadini europei non sono contro l'Europa, sono contro questa Europa. Gianni Pittella, invece, del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, dice che difendiamo il metodo comunitario contro un rilancio intergovernativo che è assolutamente inaccettabile. Kamal, del gruppo dei conservatori e riformisti europei, in plenaria aveva detto che la politica è una questione di percezioni, e ultimamente sembra che le decisioni siano prese da cinque uomini in una stanza a stringere accordi fra di loro. Categorica Marine Le Pen: rifiutate di ammettere che i cittadini rifiutano la vostra Europa. A settembre si riprende da qui, tra europeisti e anti-europeisti al lavoro per risistemare o ridisegnare gli equilibri dopo l'uscita della Gran Bretagna. Altro capitolo importante sarà invece il bilancio 2017. A fine giugno il Consiglio ha consegnato la sua copia del bilancio UE e gli eurodeputati hanno iniziato ad occuparsene dal 31 agosto. L'obiettivo del Consiglio è quello di promuovere crescita e occupazione. Come? Attraverso la ricerca e l'innovazione, attraverso il programma Erasmus+, e attraverso il fondo di aiuti europei agli indigenti. Ora tocca ai deputati europei a dettare le priorità, dal momento che anche loro condividono il potere decisionale sulle spese. Se dovessimo infine riproporre un elenco delle domande più pressanti che interesseranno gran parte del lavoro dei prossimi mesi, sarebbe più o meno così. Qual è l'impatto dello sviluppo economico della Cina sull'Unione Europea? A che punto è la lotta alla frode fiscale? Quale sarà la definizione di statuto uniforme per i profughi? Ci sono state irregolarità legate alle norme sulle emissioni delle auto in Europa? Come potete capire, è il caso di dire buon lavoro a tutti. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece l'incontro è con il Festival del Cinema di Venezia, dove ci fiondiamo, dove ci aspetta la nostra Marta Cagnola, dove è iniziato, c'è stata una bagarre su un film italiano in gara che pare sia una tradizione che ciclicamente si ripete, non è vero Marta? Sì, ciclicamente si ripete, buonasera, ma questa volta l'occasione era particolare perché c'era una commedia in concorso e si sa che le commedie in concorso non sono troppo gradite da un certo tipo di critica che insomma trova che la commedia in concorso sia un po' un'eresia, possiamo dire così. Poi una commedia molto lieve che non a caso si intitola Piuma, quindi fa capire subito la leggerezza del film, ma secondo me leggerezza in senso molto positivo. Ci sono state molte risate durante la proiezione, anche applausi a scena aperta. Ma cioè io mi sono divertita moltissimo, è una storia molto carina. Sono due diciottenni che a sorpresa aspettano un bimbo e questo provoca un terremoto all'interno della famiglia. Gli attori sono molto bravi, il film è molto lieve e divertente, sai, però per l'ortodossia della Mostra di Venezia insomma non ha molto digerito insomma. Senti Marta, sì, sì. Però c'è già... devo dire però pochissimi si sono lamentati, però sai che anche pochi fanno più rumore di quelli che applaudono. Come sempre, Marta, però c'è stato anche un annuncio che già fa discutere di Paolo Sorrentino, sta lavorando un nuovo film e al centro ci sarebbe la figura di Berlusconi, non ha esaurito sì, quindi no, è arrivato da Variety, quindi magazine americano, sì, pare che il prossimo progetto di Paolo Sorrentino si intitolerà Loro, che però potrebbe suonare anche come Loro, e avrà al centro la figura di Silvio Berlusconi e pare che il set possa partire già dall'estate del 2017. Non se ne sa molto, anzi non se ne sa niente di più, però già questa è una notizia gustosa per il prossimo così, per il prossimo progetto di Sorrentino, che qui ha presentato i primi due episodi di Young Pope. Anche questo farà molto molto discutere. Marta, non hai incontrato Rocco Siffredi per caso? Addirittura cioè, c'è stata polemica sulla commedia, ma c'è anche lui, no? Posso dirti che anche qui a Venezia, con buona pace dei critici appunto un po' seriosi, tutti che si sono voluti fare foto con Rocco Siffredi, io non l'ho fatto perché l'avevo già fatto quando ha presentato l'ultimo programma televisivo, mi sembrava troppo. Avresti avuto il doppione. Però la tentazione c'è sempre, dai. E poi ho visto che dal Messico è arrivato un alien porno contro i tabù in concorso, insomma diciamo che il tema aleggia lì a Venezia. Grazie Marta Cagnola, buon divertimento. A domani sera, ciao. Domani. Noi ci sentiamo invece tra pochissimo per gli aggiornamenti.